ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Lida Mantovani di Giorgio Bassani. Riandando agli anni lontani della giovinezza, sempre finché visse, Lida Mantovani ricordò con emozione l'evento del parto e in specie i giorni che l'avevano immediatamente preceduto. Ogni qualvolta ci ripensava, si commuoveva. Per oltre un mese era vissuta stesa su un letto in fondo a un corridoio e per tutto quel tempo non aveva fatto altro che fissare attraverso la finestra di contro, in genere spalancata, le foglie della grande magnolia secolare che sorgeva giusto nel mezzo del giardino sottostante. Poi, verso la fine, 3 o 4 giorni prima che le cominciassero i dolori, d'un tratto aveva perduto interesse anche per le foglie nere e lustre come unte della magnolia. Aveva smesso perfino di mangiare. Una cosa, ecco quello che si era ridotta a essere, una specie di cosa molto gonfia e insensibile, sebbene fosse soltanto aprile e faceva già caldo, abbandonata laggiù al termine di una corsia di ospedale. Non mangiava quasi più niente, ma il professor Bargellesi, allora direttore primario della maternità, ripeteva che era meglio così. La osservava dai piedi del letto. «Fa proprio caldo», diceva, lisciandosi con quelle sue dita fragili e arrossate il barbone bianco, macchiato di nicotina attorno alla bocca. «Se vuoi respirare come si deve, è meglio che ti tieni leggera. E del resto», aggiungeva sorridendo, «del resto mi pare che sei grassa abbastanza». Dopo il parto, il tempo riprese a passare. Da principio, pensando a David, annoiato, scontento, non le parlava quasi mai, rimaneva a letto giornate intere, la faccia nascosta dietro un libro oppure dormendo. Lida Mantovani cercò di tirare avanti da sola nella camera ammobiliata del palazzone di Via Mortara, dove era vissuta insieme con lui durante gli ultimi 6 mesi. Ma poi, di lì a qualche settimana, convinta ormai che David non avrebbe più dato notizie di sé, accorgendosi che le poche centinaia di lire che lui le aveva lasciato erano per finire e siccome, oltre a ciò, il latte accennava a mancarle, si risolse a tornare a casa, dalla madre. Fu dunque così che nell'estate di quello stesso anno Lida ricomparve in via Salenguerra, ricominciando ad abitare la stanzaccia dal pavimento di legno polveroso e dai 2 letti di ferro affiancati in cui aveva trascorso l'infanzia, l'adolescenza e la prima giovinezza. Sebbene si trattasse di uno scantinato un tempo adibito a legnaia, accedervi non risultava facile. Una volta penetrati nell'androne d'ingresso vasto e buio come un fienile, bisognava arrampicarsi su per una scaletta che tagliava obliqua la parete di sinistra. La scaletta conduceva ad una porticina a mezza altezza, superata la soglia della quale ci si trovava a sfiorare col capo un soffitto a travicelli, affacciati di colpo sopra una specie di pozzo. «Dio, che malinconia!» si era detta Lida la sera del suo ritorno, indugiando un attimo di lassù a guardare in basso. Ma però, che senso di pace e di protezione anche! Col bambino in collo, aveva fatto adagio adagio in discesa i gradini della scala interna. Si era diretta verso la madre che intanto aveva alzato il volto dal cucito. Infine si era chinata a baciarla su una guancia. E il bacio, senza che tra loro corresse una sola parola, né di saluto né di commento, l'era stato tranquillamente restituito. Si era presentato quasi subito il problema del battesimo. Non appena resasi conto della situazione, la madre si era segnata. «Sei matta!» esclamò. Mentre la madre parlava, proclamando agitata che non c'era un minuto da perdere, Lida sentiva affievolirsi dentro se stessa qualsiasi forza di resisterle. Alla maternità, quando le erano venuti attorno al letto per prendere il bambino e le chiedevano festosi che nome intendesse dargli, era stata l'idea improvvisa di non fare niente contro David a imporle di rispondere no, la lasciassero stare, desiderava pensarci sopra un altro poco. Ma adesso, perché mai avrebbe dovuto continuare a farsi degli scrupoli? A che pro avrebbe aspettato ancora? Quella sera medesima, il bambino venne portato a Santa Maria in Vado. Fu la madre a combinare tutto. Fu lei, in memoria di un fratello morto di cui Lida non aveva mai saputo l'esistenza, a pretendere che si chiamasse Ireneo. Recandosi in chiesa, madre e figlia avevano camminato in fretta, come inseguite. Tornarono invece ad agio lungo via Borgo di Sotto, dove il gasista del comune stava accendendo ad uno i lampioni stradali, svuotate ad un tratto di ogni energia. L'indomani mattina ricominciarono a lavorare. Sedute come una volta, come sempre, sotto la finestra rettangolare che si apriva là in alto a livello della strada, le fronti chine sul cucito, piuttosto che del periodo di tempo che avevano testé attraversato per tutte e due talmente amaro, preferivano discorrere, quando capitava, di cose indifferenti. Si sentivano molto più legate di prima, molto più amiche. Entrambe tuttavia comprendevano che il loro accordo poteva durare soltanto così, a patto che avessero evitato qualsiasi accenno all'unico argomento su cui si fondava. Talvolta, comunque incapace di resistere, Maria Mantovani azzardava uno scherzo o un'allusione velata. Arrivava a dire sospirando «gli uomini sono tutti uguali». O perfino «l'uomo è cacciatore, si sa». A questo punto, rialzato il capo, si incantava a guardare la figlia. E ricordando contemporaneamente il fabbro di Massa Fiscaglia che 20 anni prima l'aveva sverginata e messa incinta, ricordando la casa colonica spersa nei campi 2 o 3 chilometri fuori Massa, dove era nata e cresciuta e da cui, quando anche lei si era ritrovata con una bambina da tirare su, aveva dovuto allontanarsi per sempre, ecco che i capelli unti e arruffati, le grosse labbra sensuali, i gesti pieni di pigrizia dell'unico uomo della sua vita diventavano anche di David, il signorino di Ferrara, ebreo, va bene, però appartenente a una delle più distinte e più ricche famiglie cittadine, quei signori Camaioli che stavano in Corso Giovecca, figurarsi, in quel gran palazzo di loro proprietà, il quale per tanto tempo aveva fatto l'amore con Lida, ma che lei non aveva mai conosciuto, mai visto una volta sola, nemmeno da lontano. Guardava, scrutava, magra, affilata, limata dall'ansia e dai patimenti, in Lida le sembrava di rivedere se stessa da ragazza. Tutto si era ripetuto, tutto, dall'A alla Z. Una sera scoppiò improvvisamente a ridere. Afferrò Lida per una mano e la trascinò davanti allo specchio dell'armadio. «Guardala come anche noi altre siamo diventate uguali», disse con voce soffocata. E mentre nella stanza non si udiva che il soffio della lampada a carburo, rimasero a fissare, abbastanza a lungo, i loro visi accostati, appena distinguibili attraverso la nebbia della lastra. Non è, si intende, che i loro rapporti filassero sempre lisci. Non sempre Lida appariva disposta ad ascoltare senza ribattere. Un'altra sera, per esempio, Maria Mantovani si era messa a raccontare la propria storia. Prima ciò non sarebbe potuto succedere. Alla fine uscì in una frase che ebbe il potere di far scattare in piedi Lida. «Se i suoi parenti avessero voluto», aveva detto, «lui mi avrebbe sposata». Stesa sul letto, il volto nascosto nelle mani, Lida ripeteva mentalmente queste parole, riudiva il sospiro pieno di rammarico che le aveva accompagnate. Non piangeva, no. E alla madre, che le era corsa dietro e che ansimante le si era chinata sopra, mostrò, rialzandosi le guance asciutte, uno sguardo carico di disprezzo e di noia. Del resto le sue insofferenze erano rare e se l'assalivano, l'assalivano senza preavviso, come raffiche tempestose in un giorno di bonaccia. «Lida!» esclamò una volta con un riso cattivo. La madre l'aveva chiamata per nome. «E come ci tenevi quando andavo a scuola che lo scrivessi sul quaderno con tanto di greco? Cos'è mai che ti sognavi che diventassi da grande? Una del varietà?» Maria Mantovani non rispose. Sorrideva. La sfuriata della figlia la riportava indietro, a fatti lontani, fatti di cui lei sola era in grado di valutare l'importanza. «Lida», ripeté dentro di sé più volte. Pensava ad Andrea, Tardozzi Andrea, il fabbro di Massa Fiscaglia che era stato il suo amoroso, il suo amante, e sarebbe potuto diventare suo marito. Era venuta a stare in città con la bambina e lui ogni domenica faceva 60 chilometri in bicicletta, 30 per venire e 30 per tornare. Sedeva lì, dove adesso sedeva Lida. Le sembrava di vederlo ancora, con la sua giacca di pelle, coi suoi pantaloni di fustagno, coi suoi capelli spettinati. Finché una notte, mentre tornava al paese, era stato sorpreso a metà strada dalla pioggia e si era ammalato di pleurite. Da allora in poi non l'aveva più rivisto. Era andato a vivere a Feltre, nel Veneto, una cittadina di mezza montagna dove aveva preso moglie e avuto figli. Se i parenti di lui avessero voluto e se in seguito non si fosse ammalato, lui l'avrebbe sposata, di sicuro. Che cosa sapeva Lida? Cosa poteva capire? Lei sola era in grado di rendersi conto, per tutte e due. Dopo cena, la prima a coricarsi di solito era Lida, ma l'altro letto, di fianco a quello dove lei e il bambino già dormivano, posta al centro del tavolo ancora da sparecchiare, la lampada a carburo spandeva attorno la sua luce azzurrognola, spesso rimaneva intatto fino a notte inoltrata. Piuttosto irregolare nell'andamento e col ciottolato mezzo ricoperto d'erba, via Salinguerra è una stradetta secondaria che comincia da un vasto piazzale sbilenco, frutto di un'antica demolizione, e termina ai piedi dei bastioni comunali, in relativa prossimità di Porta San Giorgio. Siamo dunque in città, anzi nemmeno tanto lontani dal centro medioevale, e basterebbero a confermarlo le fisionomie delle case che fiancheggiano la via da ambo i lati, tutte per lo più molto povere e di modeste proporzioni, e alcune vecchie e decrepite, senza dubbio fra le più vecchie di Ferrara. Eppure, a percorrere via Salinguerra anche oggi, il tipo di silenzio dal quale si è circondati, sentite di qui le campane delle chiese cittadine hanno un timbro diverso, come sperduto, e specialmente gli odori di letame, di terra arata, di stalla, che rivelano la vicinanza di grandi orti segreti, tutto contribuisce a dare l'impressione che ci si trovi già fuori della cerchia delle mura urbane, ai limiti dell'aperta campagna. Voci tranquille di animali, di polli, di cani, perfino di buoi, remoti scampanii e fluvi agresti. Suoni e odori arrivavano anche laggiù, in fondo allo scantinato dove Maria e Lida Mantovani lavoravano per conto di una sartoria maschile. Sedute a ridosso della finestra, immobili e silenziose quasi come le grigie suppellettili retrostanti, come il tavolo, cioè, e le seggiole di paglia, e le lunghe strette sagome appaiate dei letti, e la culla, e l'armadio, e il comò, e il treppiede del catino con a fianco la brocca dell'acqua e con dietro a stento visibile la piccola porta a muro del sottoscala in cui si celavano il cucinino e il gabinetto, quando alzavano la testa dalle stoffe era soltanto per rivolgersi qualche parola, per controllare se il bambino non avesse bisogno di qualcosa, per guardare fuori, di sotto in su, ai rari passanti, ovvero a uno squillo improvviso della campanella sospesa in cima al pianerottolo, sopra l'angusto rettangolo verticale dell'uscio d'ingresso, per decidere mutuamente, previo un rapido scambio di occhiate, quale delle due bisognava che andasse ad aprire. Passarono 3 anni. Ed era da credere che molti altri dovessero trascorrerne così, senza mai novità e cambiamenti di rilievo, quando la vita, che sembrava essersi dimenticata delle loro esistenze, a un tratto se ne ricordò nella persona di un vicino, certo Benetti, Oreste Benetti, titolare in via Salinguerra di una bottega di legatore di libri. La strana insistenza con cui la sera dopo cena il vicino aveva cominciato a far loro visita assunse quasi subito, almeno per Maria Mantovani, un significato inequivocabile. Sì, pensava emozionata, quel Benetti veniva proprio per Lida. Dopotutto Lida era ancora giovane, molto giovane. Di colpo si rivelò viva, energica, addirittura allegra. Senza mai mettere bocca nei discorsi della figlia e dell'ospite, si limitava ad aggirarsi per la stanza, paga, era chiaro, di essere lì, presente ma autonoma, contenta di attendere in disparte il prodursi di un fatto meraviglioso. A parlare nel frattempo era quasi sempre il legatore. Gli anni passati, pareva che non gli interessasse altro. Quando Lida era piccola, diceva, alta così, gli capitava spesso in bottega. Entrava, veniva avanti, si alzava sulla punta dei piedi per arrivare con gli occhi all'altezza del banco. «Signor Benetti», gli domandava con la sua vocina, «me la regali un poco di carta oleata?» «Volentieri, bimba», rispondeva lui. «Potrei sapere però perché la vuoi?» «Niente, mi serve per ricoprire il sussidiario», raccontava e rideva. Sebbene non si rivolgesse a nessuna delle due donne in particolare, i suoi sguardi non cercavano che quelli di Lida. L'attenzione, il consenso, era da lei che li pretendeva. E lei, mentre osservava l'uomo che le stava dinanzi, aveva una testa molto grossa, proporzionata certo al tronco, robusto, ma non alla statura, e soprattutto in mostra sopra la tovaglia le sue grandi mani, ossute, incastrate con forza una dentro l'altra, sentiva che almeno in questo non poteva fare a meno di accontentarlo. Fronteggiandolo con amabilità contegnosa, conversava, composta, calma, e insieme, in qualche modo, ne ricavava un piacere insolito mai provato prima di allora, già sottomessa. Di niente il legatore appariva così consapevole come della propria importanza. Ciò non di meno andava continuamente a caccia di prestigio. Una volta una delle poche che si rivolse alla vecchia, chiamandola per di più col suo nome di battesimo, fu per ricordarle l'anno in cui era venuta a stabilirsi a Ferrara. «Lo aveva presente lei?» disse. «Il freddo che aveva fatto quell'anno. Lui sì, benissimo. I mucchi di neve sporca erano rimasti lungo i lati delle vie cittadine fino a metà aprile abbondante. Inoltre la temperatura si era abbassata così tanto che lo stesso Po aveva gelato. Persino il Po!» ripeté con enfasi spalancando gli occhi. Gli pareva ancora di vederlo, continuò, lo spettacolo straordinario del fiume preso nella morsa dei 20 gradi sotto zero. Fra gli argini ricoperti di neve l'acqua aveva smesso di scorrere, del tutto, tanto che certi biroccianti verso sera, invece che servirsi per passare il fiume del ponte di ferro di Ponte Lago Scuro, si trattava in genere di trasportatori di legna da bruciare alle dipendenze di una segheria di Santa Maria Maddalena e adesso tornavano da Ferrara, preferivano avventurare i carri ormai vuoti attraverso l'immensa lastra ghiacciata. Che matti! Avanzavano ad agio qualche metro davanti ai cavalli, tenendo le redini raccolte in un pugno dietro la schiena, con l'altro pugno spargendo segatura e intanto fischiando, gridando come dannati. Per quale motivo fischiavano e gridavano? Chi lo sa? Forse per far coraggio alle bestie, forse per farlo a se stessi, oppure per riscaldarsi semplicemente. «Ricordo che quel famoso inverno», disse una sera col tono rispettoso che sempre assumeva quando parlava delle persone e delle cose della religione. Orfano dall'infanzia ed educato in seminario, aveva conservato per i preti in blocco, una venerazione di tipo filiale. «Ricordo che quel famoso inverno il povero Don Castelli ci conduceva ogni sabato pomeriggio a Ponte Lago Scuro a vedere il Po. Non appena usciti da Porta San Benedetto rompevamo le righe. 5 chilometri andare e 5 tornare, non era mica il giro dell'orto. Eppure a Don Castelli guai a nominarglielo il tram. Sebbene data l'età il fiato lo tirasse coi denti, sempre davanti a tutti lui. Sempre in testa al gruppo con la sua brava sottana svolazzante, con l'umile sottoscritto a fianco. Un vero santo, altro che, e per l'umile sottoscritto un vero padre». «Avevo appena avuto la bambina», interloquì a bassa voce Maria Mantovani in dialetto, approfittando del silenzio seguito alle parole del legatore. «In città mi sentivo persa», proseguì in italiano. «Si può dire che ancora non conoscessi nessuno. Ma a casa, d'altra parte, com'è che facevo a tornarci? Voi lo sapete, Oreste. In campagna è soprattutto la mentalità a essere differente». Sembrava che Oreste Benetti non l'avesse nemmeno udita. «Un freddo così non c'è stato dopo che nel 17. Fece meditabondo. Quindi con un lampo negli occhi. «No, ma che cosa dico mai?» soggiunse, alzando la voce e scuotendo il capo. «Neanche da paragonare. Nell'inverno del 17 faceva invece un caldo sul Carso. Certe notizie sarebbe meglio domandarle alla gente che marcava visita, a certi imboscati che sappiamo bene», sottolineò in tono sarcastico queste ultime parole, «che loro il fronte non l'hanno visto neppure in cartolina». Raccogliendo l'allusione insolitamente brutale ad Andrea Tardozzi, il fabbro di Massa Fiscaglia, che era stato riformato a causa della pleurite e che per questo non aveva fatto la guerra, nel 10 si era trasferito a Feltre, là dalle Alpi, dove aveva messo su famiglia, Maria Mantovani, offesa, si irrigidì e per quella sera, ricacciata a fantasticare da sola nel suo angolo sulle infinite cose della propria vita che potevano essere e non erano state, non disse altro. Quanto al legatore, una volta che avesse stabilito le distanze che gli premeva stabilire, tornava subito a comportarsi con tutta la gentilezza, tutta la cavalleria della sua natura. Normalmente era di sé e del proprio passato che raccontava in prevalenza. Fino ai 20-25 anni gli era andata abbastanza male, sospirava, sotto ogni punto di vista. In seguito però era sopraggiunto il lavoro, il mestiere, il suo mestiere. E da allora in poi tutto era cambiato da così a così. «Noi artigiani», soleva dire non senza fierezza, fissando Lida dritto negli occhi. Mai distratta, Lida sosteneva quieta il suo sguardo. E lui le era grato, lo si vedeva, che sedesse sempre là, dall'altro lato del tavolo, così silenziosa, così tranquilla, così attenta a corrispondere anche nel modo di fare al suo segreto ideale femminile. Coi suoi discorsi il legatore faceva spesso venire la mezzanotte. Esauriti gli sfoghi personali, si metteva a parlare di religione, di storia, di economia, eccetera, lasciandosi anche andare a frequenti amare considerazioni, espresse tuttavia sottovoce, si capisce, circa la politica anticattolica dei fascisti. Nei primi tempi, senza cessare di ascoltarlo, Lida muoveva con la punta del piede la culla dove Ireneo dormì fino all'età di 4 anni. Più tardi, quando fu cresciuto un poco di più ed ebbe un lettuccio tutto suo, cresceva gracile. Verso i 5 anni venne colpito da una lunga malattia infettiva che, oltre a indebolirne in modo permanente la salute, influì senza dubbio sulla grave fiacchezza e incertezza del suo carattere. Si alzava ogni tanto dalla seggiola e, avvicinatasi al bambino che dormiva, si chinava a posargli una mano sulla fronte.